come dire, di visibilità, di messa in onda, eccetera, eccetera, eccetera. E io sarai molto sfortunato. Può essere che sia nato sotto la stella sbagliata, insomma, ma può anche essere che invece certi argomenti ancora oggi siano argomenti un po' tabù, no? Però c'è da chiedersi perché. C'è da chiedersi perché, soprattutto alla luce del fatto incontrovertibile che ci sono le più alte personalità del nostro paese, l'Unione Europea e persino in testa lo metterei Papa Francesco, che non perdono occasione per sottolineare la gravità della situazione rispetto alla questione immigrazione. L'Europa ci chiede di modificare, se non di abrogare, una bruttissima legge che tanti danni ha prodotto in questo ultimo decennio, che è la Bossi-Fini. Il Presidente della Repubblica Napoletano chiede al Parlamento, vox clamans in deserto, che venga immediatamente fatta una legge ad hoc per i richiedenti asilo, per i rifugiati politici. E Papa Francesco grida vergogna di fronte alle ultime, ma non ultime, scusate il gioco terribile di parole, stragi del mare nei mari delle nostre vacanze, nel Mar Mediterraneo, davanti a Lampedusa. No? Oggi per esempio, solo a scorrere velocemente i giornali, la prima pagina, la copertina dell'Espresso titola sul soccorso che non è arrivato nel barcone dei profughi, quelli i 300 che sono colati a picco, per cui il nostro paese ha indetto anche un lutto nazionale. E per esempio, per tornare a cose più di casa nostra, parlando della nostra città di Roma, Gabriella Gallozzi sull'Unità ci dà delle notizie. Allora, queste notizie sono che il direttore Marco Müller probabilmente se ne va, che ha già disdetto il suo appartamento non so dove, costato chissà quanto, perché insomma lui va via, va fuori dall'Italia, perché questo non è un paese che sa ospitare gente di così larghe vedute e di cotanta cultura cinematografica. E il Festival di Roma non si sarà neanche, da quello che scrive sempre Gallozzi sull'Unità di oggi, se lo rifaranno o meno. Allora, io comincerei da qui, se mi permettete. Intanto chiederei a Marco Müller di devolvere una parte dell'autostipendio che ha preso per questi 3 anni a qualche associazione di migranti che si occupa di dare una mano ai rifugiati o ai senza casa. Numero uno. Numero due, chiederei a Fondazione Cinema per Roma di fare altrettanto. E numero 3, vi devo dare una notizia meno lieta, che noi non siamo riusciti a trovare 3.000 euro più IVA, cioè quello che ci permetteva di mettere in scena, in aiuto, in sostegno al Festival del Cinema di Roma di quest'anno, da stasera una serie di proiezioni alternative, il Festival Migranti. Non li abbiamo trovati perché quei soldi probabilmente vengono usati per aiutare qualcuno ed è più giusto. Allora abbiamo pensato che questo Festival Migrante, insieme a molte sigle, molte associazioni, molti movimenti anche di migranti, li metto sempre al primo posto perché di loro parliamo oltre che di noi, e di loro parla oltre che della fine che faremo molto presto noi schiavi, in dicembre organizzeremo 1-2 giorni che sarà appunto la prima edizione del Festival Migrante, dove però ospiteremo anche delle discussioni approfondite e dove chiederemo delle cose molto precise. Le chiederemo al servizio pubblico della RAI, con l'istituzione, cosa che stiamo facendo da un po' di tempo, la richiesta di un laboratorio permanente di produzione interna e di scuola di cinema documentario. Chiederemo che nei festival più noti, o quantomeno in quelli che hanno una partecipazione pubblica in termini di finanziamento, di fondi, chiederemo che venga riservato al cinema documentario d'inchiesta e di racconto sociale uno spazio ad hoc, dignitoso e di piena visibilità all'interno del festival stesso, che si tratti di Roma se sopravvive, che si tratti di Torino o che si tratti di qualcun altro, certo non in concorso. I concorsi sono altre cose, ai concorsi concorre chi ha voglia, ma chi non ha voglia e ha voglia soltanto, bisogno, urgenza di veicolare certi contenuti e certe denunce sociali, occorre lasciare uno spazio riconoscibile. Senti, quindi la possibilità comunque di riuscire a vedere queste ed altre opere è soltanto rimandata, insomma, lo diciamo a chi ci sta ascoltando. A un certo punto si era pensata una sorta di proiezione alternativa questa sera, diciamo, in concomitanza con l'apertura del festival. Questo certo, non è stato possibile, però fare. Non avremmo voluto proiettare in prima nazionale soltanto Schiavi, che ancora al pubblico non è arrivato, perché sono state fatte due proiezioni in Camera Caritatis per la stampa, una per la stampa estera e una per i nostri italiani alla Federazione Nazionale della Stampa qualche giorno fa, ma al pubblico ancora Schiavi non è arrivato. Io non smetto di sperare che il mio servizio pubblico, la RAI, ne prenda prenda atto, visioni il filmato che già hanno in parecchi, e il film inchiesta che già hanno in parecchi, e magari non disdegni di metterlo in onda una di queste settimane. Ma al di là di questo, sicuramente Schiavi avrà una sua dignitosa uscita pubblica. Per esempio, il 25 di novembre noi saremo a Bruxelles in sede di Parlamento Europeo col sindacato europeo degli agricoltori, con Fly CGL e altri, per fare proprio in quella sede dove c'è tanto bisogno di sensibilizzare sui temi dell'immigrazione, visto, come dire, Frontex, e visto i muri di gomma che tentano di alzare da decenni nei nostri mari, insomma, inutilmente oltre che drammaticamente. E quella sarà un'occasione, ma poi ne verranno tante altre. Sono sicuro che il sindacato, la Fly CGL, ma anche l'associazionismo, Les Onlus, che coproduce questo lavoro, e tanti altri, le associazioni di migranti, le parrocchie, i centri sociali, chi più ne ha più ne metta, non faranno mancare la loro disponibilità, e quindi la possibilità di vedere gratuitamente, sottolineo gratuitamente, questo film inchiesta. Va bene, quindi insomma ci diamo un arrivederci alle prossime settimane, che è soltanto rimandata la proiezione, e poi tutto quello che verrà fuori, insomma, abbiamo preso in queste settimane tutta una serie di, come dire, contatti che ci sembravano utili e proficui, non andranno sicuramente persi, ecco. Assolutamente no, soprattutto con gli amici e compagni documentaristi, che in Italia sono davvero tanti e sono anche molto valenti, molto bravi. C'è un lavoro per esempio in uscita che andrebbe mandato in tutti i festival italiani, che è EU, è un lavoro sui CIE italiani, fatto da Cosentino Genovese, due giovani documentaristi molto bravi, e ce ne sono tanti altri. Allora, noi, mi ci metto anch'io ovviamente, anche se ho qualche anno di più, noi chiediamo dignità per il cinema documentario d'inchiesta e per il racconto sociale. Se Sacro Gra ha vinto il Festival Internazionale del Cinema di Venezia e Bertolucci ha scelto insieme alla giuria di farlo vincere, ci sarà una ragione? E allora perché l'Italia altra rimane altra e non segue queste illuminazioni, non segue queste indicazioni in qualche modo? Perché il ministro dei beni culturali Brai, che noi interpelleremo appunto con Festival Migrante, non mette in atto tutta una serie di urgenti situazioni per veicolare con maggior dignità e maggior visibilità questi lavori, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, domande piuttosto pesanti, ecco. Sì, alle quali però se insieme collaboriamo e ci uniamo per esigere delle risposte, secondo me ce la facciamo. Beh sì, anche perché poi insomma, sono, facendo un discorso più generale, il problema di lavori del genere, ma più in generale il problema del documentario è proprio questo, no? Quello di riuscire a trovare un modo di essere proiettato, e in Italia da questo punto di vista credo che siamo anche un po' più indietro rispetto siamo ad altre molto realtà, indietro, no? Nonostante alcuni piccoli sforzi siano stati fatti in questi ultimi anni. Il problema sai qual è? Che fingono tutti di non vedere, tra l'altro, ripeto, fingono tutti di non vedere che il cinema documentario ha un mercato, ed è un mercato, tra l'altro, non di nicchia, non più di nicchia, ok? Però il cinema documentario è fastidioso, fa paura, dà noia, perché racconta la realtà. E beh, poi insomma abbiamo esempi notevoli che vengono anche dall'altra parte dell'oceano, no? Al di là del giudizio che se ne può dare, però insomma fa impressione vedere documentari che diventano blockbuster. Forse non vogliamo arrivare a questo, però almeno diciamo un'autosufficienza economica forse, certo, non sarebbe così complicato. Certo, poi te ne dico una per concludere. Certo. Una che è carinissima. Allora io come regista di un documentario, sono anche un autore, ovviamente, no? E quindi pago, sono iscritto alla SIAE e pago i diritti d'autore. Guarda, apprendo con sconcerto qualche giorno fa, proprio dalla SIAE, che per esempio, poi ci sarebbe tutto un discorso lunghissimo da fare sulla SIAE, ma adesso sintetizziamo per ragioni di tempo, apprendo che per i documentaristi italiani il diritto d'autore, anche se sono iscritti alla SIAE e pagano la tassa ogni anno, ok, non esiste. Noi non abbiamo diritti d'autore sui documentari, abbiamo tra virgolette diritto a uno sconcio, a una beffa, che è l'equo compenso, secondo una leggina recente promulgata dalla SIAE e accettata dal ministero competente, che ci dà diritto, pensa un po', allo 0,04% di percentuale sulla vendita di un DVD. A seconda del costo di copertina di questo DVD. Schiavi, io l'ho messo a un prezzo politico che è 5,99 euro, dovrei venderne 100.000 copie per far 500 euro. Quindi anche queste, no? Sono sintomi, no? Della sciatteria, per non usare altri termini, insomma, del non rispetto verso gli autori e verso il genere del cinema documentario. Senti, il fatto, qui chiudiamo perché sappiamo che sei un pochino impegnato stamattina, però l'ultima battuta, proprio il fatto che un documentario abbia vinto un festival che comunque è ancora importante come quello di Venezia, è una rondine che non fa primavera, oppure diciamo, è un segnale importantissimo, che erano decenni che il nostro cinema documentario attendeva, insomma, forse di più dai tempi del neorealismo, insomma, da grandi maestri italiani che ci hanno insegnato come si fa cinema, e lo hanno raccontato e fatto vedere nel mondo come si fa cinema. Erano quindi decenni che aspettavamo questo momento. Certo, è un segnale molto importante sul quale noi non mancheremo di sollevare attenzione e luce. È chiaro che no, questo non basta, può essere un inizio, però dobbiamo volerlo tutti insieme, altrimenti Mencherini rimarrà solo a proiettare davanti al Festival del Cinema di Roma il suo Schiavi, i ragazzi di EU 013 uguale e tutti gli altri bravi e valenti documentaristi italiani idem.